stirpe di disubbidienti. Don Milani Lorenzo, uno sconosciuto ebreo diventato sacerdote cattolico, divenne famoso per aver scritto, il 18 ottobre 1965, una lettera denunciando che l'obbedienza non è più una virtù. In seguito, anche per questo fu ritenuto non opportuno dal Sant'Uffizio e perciò destituito dal suo compito. L'episodio di Don Milani, venuto alla ribalta nella storia italiana, insegna che esiste una serie di persone facenti parte di una stirpe di disubbidienti che sono il sale della terra, la luce del mondo. Senza questa stirpe di disubbidienti, la moralità di oggi sarebbe precipitata nella più profonda pozza di letame. È vero che non c'è niente di più facile che disubbidire, che una delle prime paroline che impara a dire un bambino è no. Ma di disubbidienze ce ne sono di due tipi, una buona, cioè conforme ai principi morali di Dio, e una malvagia. Poiché la disubbidienza malvagia la conosciamo tutti, iniziamo prima a considerare la disubbidienza giusta e santa. 1. Quando il faraone decretò che tutti i bambini maschi dovevano morire, due levatrici ebree dissero di no. Senza saperlo, aiutarono a salvare uno dei più grandi uomini che la storia abbia mai avuto, Mosè. 2. Shadrach, Meshach e Abednego, tre segretari al servizio di Nebuchadnezzar, si rifiutarono di inginocchiarsi davanti alla statua del re e, perciò, furono gettati nella fornace di fuoco ardente. 3. Disubbidendo a ciò che decretava la legge babilonese, Daniele continuò ad adorare il suo Dio e, a causa di ciò, fu gettato nella fossa dei leoni. 4. Pietro non tenne conto del divieto postogli dal Sinedrio, la sua autorità religiosa, di predicare nel nome di Gesù. A giustificazione del suo atteggiamento, chiese loro se fosse giusto, davanti a Dio, ubbidire a loro piuttosto che a Dio stesso. 5. L'Apocalisse non sarebbe stata scritta se l'Apostolo Giovanni non fosse stato in esilio sull'isola di Patmos a causa della sua disubbidienza alle leggi umane. La storia dei disubbidienti non finisce qui. 6. Nei primi tre secoli d.C., chi si rifiutava di giurare fedeltà assoluta alle deità romane o alla deificazione dell'imperatore andava incontro a morte certa. Molti disubbidirono a tale ordinanza. 7. Nel 156 d.C., Policarpo fu bruciato a rogo perché si era rifiutato di rinnegare Cristo e dichiarare che Cesare fosse Dio, dicendo: «Per 86 anni sono stato il suo servo e lui non mi ha mai fatto niente di male. Come posso bestemmiare il mio re, che mi ha salvato?» 8. John Bunyan scrisse la sua famosa opera Il pellegrinaggio del cristiano, perché era in prigione per essere stato dissenziente sotto il regno degli Stuart in Inghilterra. 9. I puritani inglesi infransero la legge e insegnarono la parola di Dio. 10. Durante la Seconda Guerra Mondiale, dei credenti tedeschi rifiutarono di guidare i treni che portavano gli ebrei nei campi di concentramento dove sarebbero stati quasi tutti uccisi. 11. Il 9 luglio 1998, nell'abbazia di Westminster, a Londra, alla presenza della regina Elisabetta, sono state inaugurate le statue di 10 martiri del XX secolo. Tra queste, quella di Esther John, una donna pakistana. Era nata in una famiglia musulmana, si era convertita a Cristo, costretta a fuggire e a rifugiarsi in una missione, ma i suoi familiari l'hanno trovata e uccisa ferocemente, riducendo il suo cranio in frantumi. 12. L'11 settembre è diventato un giorno storico. Sull'aereo dirottato che doveva schiantarsi sulla Casa Bianca, un cristiano di nome Todd Beamer ha assalito, assieme ad altri 4, i dirottatori facendo precipitare l'aereo, destinato ormai alla morte, in un luogo deserto, non creando altre vittime. Don Milani aveva colto sul segno e non disse nulla di nuovo quando affermò che l'obbedienza non è più una virtù. In ogni epoca vi sono stati dei santi disubbidienti che hanno sfidato, a costo della loro vita, le autorità civili e religiose per compiere ciò che era giusto nel cospetto di Dio. Ne ricordiamo ancora uno. Correva l'anno 1521. Un uomo era solo di fronte all'imperatore e ad un'assemblea di principi, di ambasciatori, di magistrati e di cardinali, solo di fronte a tutte le autorità civili e religiose riunite. Gli venne intimato di ritrarsi dalle sue convinzioni. Dopo aver riflettuto, un giorno rispose: «Se non mi si dimostra, con la scrittura, che ho torto, non posso né voglio ritrarmi. La mia coscienza è prigioniera della parola di Dio e non è bene agire contro la propria coscienza. Non posso altrimenti. Dio m'aiuti». Per un atto di coscienza di disubbidienza, Lutero diede avvio a quella che divenne una delle due più grandi scissioni della storia del cattolicesimo, il protestantesimo. Disubbidire a ciò che è sbagliato non è facile, soprattutto quando il prezzo è alto, ma diventa inevitabile per chi si è schierato dalla parte della verità. Quelli che abbandonano la legge lodano gli empi, ma quelli che osservano la legge fanno loro guerra. Proverbi 28:4. Luce e tenebre non sono mai andati d'accordo, come non sono mai andate d'accordo le due nature che possiede il Figlio di Dio. Or io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, così che voi non fate quel che vorreste. Galati 5:16-17. Lo sanno molto bene coloro che hanno consacrato la loro vita e la loro volontà all'ubbidienza di Gesù Cristo. Essi sono coloro che aggiungono un anello alla catena della razza dei santi disubbidienti. Essi disubbidiscono alle loro inclinazioni sbagliate. Tutti nasciamo con delle tendenze a compiere il male, quali la disonestà, malvagità, ingratitudine, maldicenza, concupiscenza, ma non danno ad esse nessuna importanza. Essi disubbidiscono alle seduzioni del mondo, a tutto ciò che procura piacere in modo illecito. Essi disubbidiscono a Satana, il quale offre all'uomo l'alternativa di adorare e seguire altre divinità all'infuori del vero Dio, rivelatosi sul monte Sinai. Disubbidire o rinunciare a certi piaceri non è facile. Come disse qualcuno, la rinuncia è una virtù straziante. Eppure, vi è un'altra stirpe di disubbidienti ai quali sembra che la loro disubbidienza sia piacevole, anche se, poi in fondo non è così, sono i disubbidienti malvagi. Di essi, i santi disubbidienti non hanno invidia, non desiderano appartenere alla loro stirpe, sono felici di non partecipare alle loro sofferenze perché sono inutili, ingiuste, non procurano nessuna benedizione. Prendiamo un esempio dal popolo di Israele in ciò che leggiamo nel libro del profeta Zaccaria. La parola dell'Eterno fu rivolta a Zaccaria dicendo, così dice l'Eterno degli eserciti, amministrate fedelmente la giustizia e mostrate ognuno verso suo fratello bontà e compassione. Non opprimete la vedova e l'orfano, lo straniero e il povero, e nessuno. Ma essi rifiutarono di ascoltare, voltarono ostinatamente le spalle e si turarono gli orecchi per non udire. Resero il loro cuore come il diamante per non ascoltare la legge e le parole che l'Eterno degli eserciti mandava loro per mezzo del suo spirito, attraverso i profeti del passato. Così ci fu grande indignazione da parte dell'Eterno degli eserciti. E avvenne che come egli chiamava ed essi non davano ascolto, così essi hanno gridato e io non ho dato ascolto, dice l'Eterno degli eserciti, ma li ho dispersi col turbine fra tutte le nazioni che essi non conoscevano. Così il paese rimase desolato dietro di loro, senza più nessuno che vi passasse o vi ritornasse. Di un paese di delizie si fecero una desolazione. Zaccaria 7:8-14. Il monito che l'Eterno rivolge al suo popolo disubbidiente è valevole per tutti i disubbidienti malvagi. Chi non ascolta le parole di Cristo e la sua legge non sarà ascoltato quando invocherà aiuto. Disubbidendo al proprio Creatore, non solo si ricevono le conseguenze dei propri errori, ma si crea anche un impedimento per ricevere il giusto soccorso al momento opportuno. E vi è di più. La disubbidienza malvagia ci porta direttamente alla perdizione. Guardate di non rifiutare colui che parla. perché se no scamparono quelli che rifiutarono di ascoltare colui che promulgava gli oracoli sulla terra, quantomeno scamperemo noi se rifiutiamo di ascoltare colui che parla dal cielo. Ebrei mezzogiorno 25. Possiamo essere d'accordo con chi dice che la Bibbia non è un libro facile, ma non possiamo negare che vi siano contenute delle verità comprensibili anche ai piccoli fanciulli. Secondo la Sacra Scrittura, si può disubbidire, anzi, si deve disubbidire. Solo, come abbiamo detto, di disubbidienze ce ne sono due, una giusta e una malvagia. Sembra che non ci sia altra possibilità se non disubbidire. Colui che ama la verità, la giustizia e il bene del prossimo disubbidirà alle sue inclinazioni sbagliate, alle autorità civili e religiose, quando sarà il caso. Chi non ama il suo Creatore Gesù Cristo rifiuterà di amare la verità per essere salvato. 2 Timoteo 2:10. Nessuno è obbligato da nessuno ad avere un certo comportamento, ma non possiamo ignorare la sentenza di Dio. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate, ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Giovanni 3, 20-21. Tu sei libero di scegliere a quale tipo di disubbidienza dedicarti, ma non puoi pretendere che il risultato sia quello che vuoi tu. Se fai cose malvagie, cioè ti conduci senza tener conto della volontà di Dio, così come è espressa nella sua parola, la Bibbia, o se anche te ne discosti di poco, mettendola in qualche modo in discussione, seguendo ciò che ti pare giusto, non arriverai a conoscere realmente Gesù Cristo, la luce del mondo, la verità. Se pratichi la verità, conoscerai Cristo e la vita eterna. Sei indeciso su cosa scegliere? Disubbidisci. Rifiuta questa tua indecisione. Scegli Gesù Cristo, la vita eterna, la via, la verità, la vita. E riceverai il giusto e santo spirito di disubbidienza per rifiutare ciò che non onora Dio. Dicembre 2003. Ellero,